Ammazzerei i mortacci tua per far stare la pina e facevi pure a portarmi sul Monte Bianco. Ma che Monte Bianco, sta sempre a Bacaià. Scendi, dai. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Prontissimi, prontissimi, eccoci qua. Benvenuti a bordo dell'astronave Enterprise. Io sono Andrea e benvenuti anche sull'isola dei famosi, ragazzi. No, dai, sto scherzando. Sto assolutamente scherzando, come si suol dire. Scusate, ma c'è il teletrasporto. Vediamo chi è che sta salendo sul ponte. Voglio proprio vedere chi è che sta salendo sul ponte. Chi è che c'è? Allora, noi siamo qui. Siamo sì. Qua, siamo pronti. Sì. Sei no. Pronta? Na, na, na. No, na, ma dai. Na, na, na, ma queste non sono le reti Mediaset. Ah, ok. Na, na. Bellissimo, ok. Vabbè, ringraziamo anche Mara Veniere, Alberto... no, che Alberto, cosa sto dicendo? E i signorini che sono venuti a trovarci, cioè praticamente hanno preso Star Trek per l'isola dei famosi. Ribadisco che non è l'isola dei famosi questa trasmissione, è l'isola semmai dei non famosi. Però insomma mi fa piacere che sono venuti a trovarci. Allora, no, adesso basta, qua, sì, no, non siete assolutamente pronti, perché ragazzi, questa qua non è l'isola dei famosi, è Star Trek. E io sono Andrea, in apertura vi ricordo tutti i vari riferimenti per interagire con la trasmissione: www.startrekonline.org, e poi abbiamo anche il mio account Twitter, che è seguente chiocciolina De Mangia. Prima canzone, ricordiamo i mitici anni della musica house. Qua dovremmo essere all'inizio del 2001, mi sembra 2002. Scusate, ma non ho guardato la data, capita. Prima canzone che dedico come di consueto al mio carissimo amico della provincia di Piacenza. Il titolo del brano è The Light, Michelle Wicks. Questo è un bellissimo club mix, musica house dai suoni decisamente più raffinati. Siete a bordo dell'astronave Enterprise. Friend, you might be going through something right now that you might not understand, but don't you worry. What I have to say can bring a change in your life. You see, no weapon formed against you can prosper. It It's in the Word. And if you need help, all you gotta do is ask. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds. And to those who knock, it will be opened. Michelle Weeks con questo bellissimo Club Mix The Light. Music House, direi sopraffine, molto molto raffinata. Questo disco lo dedico al mio carissimo amico della provincia di Piacenza, che spero sia all'ascolto. Siete sempre a bordo dell'astronave Enterprise. Scusate, c'è sempre qualche persona che sgomita un po'. Allora, noi siamo via. Qui. No, veramente ci sono io qua, basta, eh. No, no, no, non accetto. Scusate, ma allora noi siamo sì, qui. No, no, no, no, sono io qua e non siete assolutamente pronti. Bussa via, per piacere, andate nelle reti medias, dai. Qua salgono a bordo un po' tutti dell'astronave Enterprise. E ora invece leggiamo, dai, qualche notizia simpatica e carina. Questa non è proprio proprio simpatica, direi che è una notizia un po' da brividi. Ci vorrebbe anche una base particolare, magari, per introdurla. Non so, tipo base da film dell'orrore, tipo questa. Sentite, ci vorrebbe una basettina tipo questa. Ecco, sì, perché diciamo così, è una news particolare. Tratta dal quotidiano online Blitz. Shining, foto immortala fantasma in hotel che ispirò Kubrick. Shining continua a dare i brividi, è un film sicuramente dell'orrore ben fatto, però pensate un po', si legge su un sito, presumo, Click to Houston. Ha infatti immortalato questo sito, probabilmente un fotografo del portale, una figura spettrale nell'hotel in Colorado, che ha ispirato il libro di Stephen King, il romanzo su cui si è basato per l'appunto il film diretto da Stanley Kubrick. L'autore della foto, presso lo Stanley Hotel, in cui appare un'inquietante presenza femminile dalle sue foto, praticamente in cima a una scalinata si vede una donna vestita di nero. Il fotografo è Henry Yuan, che ha condiviso l'immagine sulle sue pagine Facebook e Instagram. Credo di aver catturato un fantasma, nel post scrive. Dice di essersi accorto di ciò che aveva fotografato solo il giorno dopo, quando ha rivisto lo scatto durante la notte. Ha scelto anche, insomma, il periodo della giornata migliore, direi. E guardando per l'appunto questo scatto, ha avuto stranamente nausea e problemi di stomaco. Il fatto è che, dice per l'appunto il fotografo, mi ammalo raramente. Secondo gli esperti del paranormale, riporta per l'appunto il sito Click to Houston, la foto mostra non una, ma bensì, pensate, due figure spettrali, quelle di una signora vestita di nero e a sinistra quella che sembra essere di un bambino. Non si tratterebbe di un fenomeno occasionale, dal momento che l'hotel in questione ha la fama di essere popolato da fantasmi e da molti viene descritto come uno degli alberghi più infestati d'America. Pensate un po'.